vasca. La vasca. Bidoni, vasca, di tutto. Mamma stava fino a mezzanotte e riprendo. Poi il domani mattina mancava. E ce l'avevamo. Purtroppo ti dovevi arrangiare, allora mancava spesso, Alla grande me lo ricordo che erano tempi duri prima. Prima c'era sempre la vasca piena d'acqua. È vero, è vero. A vattene era un tempo, ma lo sai quanta ne buttiamo di acqua adesso? Ohia! Oggi ho fatto un po' di revival. Mio figlio mi ha chiesto, quando ero ragazzo, con che giochi giocavo, mi sembra mi sono venuti in mente la casetta Cicocca, Susanna tutta panna, la mucca Carolina, tutti i giochi. Tutti i giochi dell'infanzia, il cavallino Michele. Eia. Station, hanno vinto, hanno vinto, fucili mitragliatori, a noi un pezzo di coso, di legna disegnato che partiva da Busiri. Mannaggia, telefonini, pure noi prima. Cerbottane, magari. Cazzo ne ha passata di cerbottana, cazzo, nei cantieri, cazzo, rubando canalette degli elettricisti per fare le cerbottana. Quelle grigie. Poi anche quelle che compravi, quelle truccate c'avevano due manici. Poi ne mettevamo, visto quelli, cioè dei manici c'erano i proiettili in gomma, no? Noi ci mettevamo lo spillo in punta, poi quando passava il signore nella sedere, pum, e ne... Quello l'abbiamo fatto anche noi in via Granci. Sì, se no quando le viste le scuole elementari, San Giovanni Bosco, lì lo sai cosa faceva Gianni quando era ragazzino? Prendeva una tavola di legno, si sedeva sopra, ci avevamo un coso per tenerci, e l'altro spingeva, faceva tre scale. Quello sì, e perché le classiche montagnette, quando ti mettevi il petto di cartone sotto il culo, cazzo, strisciavi sino a giù, da poi macchi, manco per la fatica che si faceva, arrivavi giù, ti prendevi il petto di cartone, via di nuovo su, cazzo, invece ci voleva mezz'ora a salire e due secondi a riscendere. Tutto movimento, già me lo ricordo, per carità, e poi a partire... dall'entrata della via di casa tua scendevamo lì col monopattino sino a Titi di Goma, tutto canto una dirata, facevamo le gare, no? 3-4 monopattini, c'erano i tipi che spingevano e ne bussavano, vai, io ero autista. E quello mio correva un bel, me l'aveva fatto fare Niame, che era amico di mio padre, lo sai dov'era? Era esattamente per andare al circolo Bocciuffilo, c'è quella casetta che si chiama Villa dell'Aire, era lì. Ma tu stai dicendo il monopattino, quello con i cuscinetti o il carruzzo? Il monopattino con i cuscinetti presi dalle ferrovie, andavamo alle ferrovie e ci faceva i cuscinetti, ma avevamo fatto dare uno grande e due piccoli, il grande l'ho messo davanti e due piccoli dietro. C'avevo il freno fatto con il legno, un legno col chiodo al centro, poi come tiravi c'aveva un gommino e frenava. Anche noi l'avevamo fatto quello lì, diverse volte ce l'avevano sequestrato i vigili. E più di una volta ce ne scappavamo come li vedevamo. E io c'avevo il cuscino per sederti, tutto, era tutto quanto a fronzo, un bel bello era, come era fatto, tutto particolare. Infatti poi l'invidia della gente, io sono dovuto partire a tempio questo carruzzo, praticamente mamma non me lo faceva portare su a casa e quindi non lo nascondevo. Quando sono partito e sono tornato me l'ho trovato tutto distrutto. Lo dovevi portare su a tempio e ti dovevi fare la famosa. Vero. Eravamo andati ai vacartali a tempio. Mi avviani furato e fasciato. È stato bello, poi me l'ho ricostruito l'altro nuovo. Poi parlo di quello di Alaska. Oh, yeah. vita, fino all'attico, lascia perdere, che ho consumato più trattilaio dai cantieri che i cantieri stesso, usando quel tondino. Luca, io non posso parlare, dentro la radio. Praticamente una volta mi ricordo, io avevo un amico che era un bel milioso, ma di quelli che con un pallino ti buttava l'uccello, era proprio, avevo una mira allucinante. Una volta andiamo alla stazione, gli viene in mente, se tanto me, ho provato con i pallini, ma Lugoso, i piccioni non invadano, sotto si girava la lunice di piume, ma non li fate nulla. Ah, così è tutto buio tanto, ma sì, capita che si mette in tasca un po' di pallucci. E così si tira la figata e lo prende il rubizzone, si fa raddorrare. Prende, se lo mette sotto il coso, sotto il golf, per non farselo vedere. E stava andando via, questi poliziotti della stazione ci hanno circondato e ci hanno portato dentro, dove ci sono tutte quelle fotografie strane di gente ricercata e cose. E c'aveva ancora il piccione che era mezzo vivo, ogni tanto si dimenava e gli ballava il golf. Se c'era un fatto dentro, io sono riuscito a scapparmene. E lui ha detto, il nome è falso. E meno male che dice, cosa c'è lì sotto? Una ciappa di rubiccio. Dice, c'era un piccolo ferito, io lo stavo proteggendo, E la guardia ha detto, ma cosa ho proteggendo? Ti ho visto io continuando, questo e quell'altro. Dice, dammi nome e cognome, adesso ti segnaliamo anche i tuoi genitori. E ha detto, nome e cognome è falso. Meno male ci è riuscito, capo Buia. Invece noi al posto del coso andavamo nelle officine e per i cosi, per i cuscinetti, li aprivamo e ci facevamo i pallini da lì. I cuscinetti che se ne appendono. E noi andavamo lì alla stazione, lì proprio dove ci sono state ferrate sarde, lì dove ci sono le officine. Sì, sì, già ho capito. Noi ci facevamo andare in giro per stare, no, il giro delle officine, a quello non gli sembrava vero quando gli pulivi l'officina. E poi tutti quanti belli puliti con lo straccio, no? Ma avevo quei barattoli di caffè in latta che si usavano una volta, ne avevo due o tre pieni di cose di biglie di cuscinetto. Certo, ma erano un bel mani, e si faceva, erano come pallettoni. E a parte quello, poi anche quelli di macchina, no, che rimanevano appena più piccoli, ma dovevi vedere una precisione, era un peccato, ogni volta che ne dovevo tirare uno mi piangeva il cuore per la fatica che bisognava farlo per procurare quella roba là. Lo so, magari era efficace. Cavolo, guarda, erano perfetti, come traiettori erano perfetti. Poi la caccia alle tirighette con le caccia al bottane, non è mica finivo io. C'è il bottane sempre con gli aghi, e tiravamo le tirighette. Eia, guarda, noi poi quando abbiamo cambiato casa, che il Monte Bianchino, diciamo, stava appena cominciando a nascere, perché lì era tutto campagna, tutto alberi di olive, e lì si passava per andare a Pirigheto, ma tu devi vedere che spettacolo, Pirigheto che non era. Io me lo ricordo perché andavo anche a giocare lì. Mia sorella abitava in quel palazzo dove c'è il tabacchino adesso lì. E noi quando siamo andati a abitare tutta quella zona non esisteva. E c'era un palazzo e poi quello che hanno costruito dove abita mamma. Tutto il resto era tutto alberi d'olive. Cappagato. E Maria Pias, ma conosci tu? Chi? Maria Pias. Va, abita lì. Abitava lì. La mamma ci abita. E il numero te lo ricordo? No, non me lo ricordo, Giuseppe. Però è appena giri per andare verso il quadrato sulla sinistra. Perché la via è grande, Migia. Sulla sinistra, non vedi, via Lunesole. e via Bardini a metà mamma. Mie, ecco la domani. Perché dirà se ce n'è una come entri nella via, subito il primo cancello sulla destra. K, ma è sulla sinistra questa qua. Non è sulla destra, è sulla sinistra andando verso il quadrato. No, allora stiamo parlando di un altro Miras. Guarda che lì la madre rimaneva piccoletta, magrolina. Io i genitori non li conosco, però conosco all'ira, sono lontano di chi. K, una bella zona comunque quella lì, una bella zona. Ci ho visto con mia sorella e mi ricordo che lì mi avevo fatto un bel po' di su. Quando avevo finito le scuole dovevano fare tutta la ringhiere, levigarle, verniciarle, fare tutti i garage, pitturare tutte le serrande, tutto quanto. E mia sorella mi ha detto se mi interessava che voleva che facessi questo lavoro, capo condominio. Sono andato e l'ho fatto. E mi avevano pagato abbastanza bene. Mi ricordo che ero stato soddisfatto. Poi qualcuno mi ha chiamato anche a casa sua a farmi il ringhiere di casa quando ha visto come pitturavo facevo. E ho fatto anche qualche ringhiera di qualche signore. E prima ci si arrangiava molto, io ho fatto diversi lavori, anche durante lo studio, odiavo poi la sera, ma a certa ora quando uscivo trovavo un po' di tutto. Guarda, di cosa, di fame, già non si moriva in quel periodo. Oh, adesso è veramente triste. E io anche d'estate, lavoravo da Kirchi, a Serra Secca, portavo le bibite col cane. Beh, Kirchi già lo conosciuto. Io ho lavorato anche in un supermarket, sistemavo tutti gli scaffali, andavo giù da Coso, da De Grosse, a caricare la macchina per tutta la roba che poteva mancare, capito? Dai salumi alla pasta e tutto quello che serviva in quel market, e dalla mattina alla sera diciamo che ero sempre lì. Sì. E prima andavano molto anche questi market piccoli, ma adesso sono tutti già vendi. Qui che sono andati male dei market, avevano bei clienti. Infatti hanno detto non è giusto che facciano così, perché questi grossi, certo, i clienti non li hanno mai aiutati, invece noi se non c'erano soldi pagavano a fine mese, se ne vanno, e poi a fine mese facevamo il conto. Certo, ce n'era uno lì dietro casa di mamma di market ed era grandetto, cioè niente di eccezionale, però insomma, il suo tanto già lo faceva e niente, quello lì ha fatto un pacco di soldi, quel tipo che ce l'aveva, però poi quando hanno cominciato a aprire da una parte, hanno aperto, poi avevano aperto la Fanda Union, poi aveva aperto Coso Multinetto e poi ha aperto quell'altro dietro e sono spariti in un anno. Purtroppo c'è sempre quello che ti mette il bastone fra le ruote, quando sembra che sei arrivato c'è quello che ti taglia anche sempre. Infatti, ma con questa distribuzione secondo me hanno esagerato qui su Sassa, cioè su Sassari e su tutta la Sardegna, perché va bene la grande distribuzione, per una grande distribuzione controllata secondo me sarebbe stata anche una cosa più equa per tutti. Anche a Porto Torres, che non è una grande cittadina, per dire, ci sono molti supermercati, confronto la popolazione. Vabbè che prima andavano anche a Sassari a comprare, adesso magari hanno l'Eurospin lì e comprano lì, hanno la Colande lì e comprano lì, quindi non hanno più bisogno di spostarsi. Va bene, ma guarda, per il fabbisogno di Porto Torres io non sono più che certo che quei market sono troppi. Ah sì, infatti. Vabbè, noi abbiamo avuto il monopolio per tanti anni, con la verità. c'eravamo noi e Giorgio, ma Giorgio andava, era proprio pochi clienti, infatti ha fallito su. Poi diciamo ha cominciato a aprire come le formiche. Ehi, Giorgio adesso mi pare che abbia roba per il mare, casalinghi, se non mi... e cosa di bomboniere, se non ho visto male. Sì, al corso lì sì. Ma prima aveva negozi via delle vigne, via Rossini, aveva diversi negozi alimentari. Sì, vedi, e quello può anche andar bene, può anche andar bene, perché io sono sempre stato a favore dei negozi di quartiere, non proprio il coso grande perché poi viene anche male, io la vedo anche male. Fai un centro di distribuzione, ad esempio come ce l'avete fuori voi, fuori Porto Torres, e uno dall'altra parte di Porto Torres, il grosso diciamo centro di distribuzione. Ma lascia in città i piccoli negozi, perché quelli ci vogliono. Ma sai cosa, Giuseppe, anche l'economia. Perché un negozio piccolo non si può fare il prezzo di un negozio grande. Un negozio grande acquista in grossa quantità, ti regalano, per dire, due pedane su 10 che lo prende e può fare dei prezzi stracciati. Mentre invece il negozietto piccolo compra una cosa a piccoli tipi. Quindi i prezzi sono sempre più alti. Quello già lo so. Quindi anche chi compra guarda la sua convenienza, è poco di fa, non è che sia una cosa, una novità, però pochi ne sono, rimasti di questi negozi qua. E l'altro giorno sono andato a comprare roba da questi cinesi, mi hanno chiuso due negozi, penso fosse tre tributarie. Ehi, vabbò, di questi oramai già ce ne sono troppi, questi sono venuti fuori come i funghi e secondo me hanno sbagliato a non mettere già dei paletti ben precisi a questa gente, perché io ho notato anche una cosa, gente che voleva aprire un'attività qui al centro di Sassari dove adesso ci sono i cinesi si è visto rifiutare la licenza e a loro invece l'hanno data. Perché loro mala sorte pagano da tutte le parti. Se è vero quello che dicono che c'è la mafia dietro. Comunque pagano i locali due volte in più di quello che valgono. Ma tu hai notato che cosa tutto hanno preso a Pedanieta? Cioè, ma io dico questo, quanta roba devi vendere per prendere capannoni che tu prendi quelle Eurasia? Io non c'ero mai entrato, sono andato con un amico perché mi ha detto ti devo far vedere una cosa, cioè questa gente come fa a pagare ogni mese l'affitto di un capannone così grande? Io non so se tu ci sei mai entrato lì dentro, ma mi è mano, micia. Da ora sì, no, però sono andato, allora io sono andato a quello dove c'è, forse Eurasia, sono due per Eurasia, lo sai, e sono andato a quello entrando per andare nella pizzeria, come cavolo si chiama, non mi viene adesso come si chiama, vabbè c'è quella pizzeria comunque a Pedaneta, la White and Green. Esatto, ed è proprio quello lì. Quello è enorme. Però ce n'è anche un altro che si chiama sempre Eurasia ed è dall'altra parte, sulla strada. Ma puoi entrare anche da Viale Porto Torres, è sempre quello. Così è. Comunque quello lì è un bel grande, l'ho visto, ci sono anche le luci di Natale, un bel di roba, c'è, ma ti perdi. Per la macchina c'è di tutto e di più. Ecco, io dico una cosa, ma quando mai con la crisi che c'è, con tutto quello che vuoi, questa gente è in grado di potersi permettere di prendere un capannone megagalattico come quello, magari affitti in stratosferici? Guarda anche dove c'è la centrale del latte, gira a sinistra e prendi per Pedanieta, c'è l'autolavaggio, addirittura dove c'era prima Coso o Brick House, l'hanno preso loro, ti ricordi Brick House? Sì, l'ho visto. anche dove c'era, come si chiama, centro casa, una cosa del genere. E gli hanno preso tutto loro, hanno preso tutto loro, e non stiamo parlando di pagare un affitto di un localino come può essere al centro di Sassari, che bene o male, per quanto piccolo può essere, stai pagando sempre troppo. Però lì io sono sicuro che saranno svariate migliaia di euro loro che devono pagare ogni mese. Io so, Giuseppe, che li comprano questi locali, che li comprano. Vabbè, quello nostro ce l'ha in affitto, quello dove siamo andati insieme. Ecco, e anche quello non è piccolo, quello lì non è piccolo, ma voi che almeno non gli dia 2000 euro al mese di cosa l'affitto, anche io credo che siano pochi comunque. Neanche di più di darà magari. Però ha un bel giro quello lì, quello guadagna, c'è un bel giro. Il primo periodo che ha aperto, dopo due giorni ne hanno chiuso il locale, hanno caricato tutta la roba con i camion della finanza. Ecco, bene, ma anche se hanno un bel giro, tutto quello che vuoi, o Gianni, 1000 euro vogliono guadagnarti, e li devi mettere da parte, perché quelli è come che non ce li hai in tasca. Poi una volta che hai fatto 2000 euro, devi ripartire da capo per metterti qualcosina in tasca, pagare la merce, la luce, non credo che a loro, perché sono cinesi, gliela diano gratis. E allora vedi, ma ce deve essere un giro pauroso dietro, perché guarda, io non so questa gente come stia in piedi. Già stavo parlando anche con una collega l'altro giorno che ci siamo trovati lì, e mi ha detto, boh, io non so da dove cacchio guadagnano questi qui, vedendo la roba così poco, come fanno? Io stamattina sono sceso alla rotonda a cercare l'amico mio, perché lui sicuramente avrà detto, e questo se ne è dimenticato. Quale? Mi è trovato. Però glielo ho detto già mi riconosci, sì, mi stavo guardando un po' così, e me le ha date, le ho provate e funzionano alla grande quelle. Che cos'era? Non me lo ricordo, Giuseppe. Le cuffie con il microfono incorporato. Ah, esatto. Non ti funzionavano le cuffie e il microfono, se non mi ricordo. E allora, le cuffie funzionavano bene. Il microfono partiva, che si sentiva, poi pian piano se ne scendeva, sino a non sentirsi più niente. Rappagato. Adesso che microfono stai usando, Giuseppe? Ma adesso qui nel baracchino già. Il DM1000. Sì, bene, ma quello che ho usato io come lo stai usando? Perché ce l'ho nel 48. Gappa. Quello del 48 già lo sai dove. Io nel 48 lo dovevo riavere. Sempre nel 48 è rimasto però, Beh, girala come vuoi, guarda, io con quel 48 oramai mi ci sono affezionata. Già va bene, ma prende splatter, vero? Ma non lo so già, sino adesso io qua non l'ho sentito a nessuno, perlomeno, e per il poco che lo sto usando. Non so se Luca c'è sempre all'ascolto. Cristian, può parlare Luca perché fa disturbo. No, io ce l'ho qua, guarda, ho lui e le 48 a fianco, e ci stanno benissimo uno vicino all'altro. Già va bene, sì, questo qui ti fa la voce grossa, bella lunga. Proprio ruspante. E chi è ste gusto? Che andiamo, questo qua spinge però di microfono, e lo sto vedendo anche dal, come si chiama, dal, aiutami, dalla lancetta dello smitter. Non mi veniva fuori lo smitter, mannaggia casa, bisogna che me lo scriva in fronte. Io domani devo salire alla GBC, devo comprare una cosa, uno spezzone, devo comprare di quelli corti. Io domani mattina ci vado presto e mi ritiro quella commissione. ma avete già appurato che è l'altro? Sì, sì, perché ho provato l'altro 747 e da quelle cose lì, da quei vabbè. Ma lo fa il rumore? Ebbene. Lo fa sempre, quindi l'alimentatore. Però oggi, dopo pranzo, me l'ho tutto aperto, me l'ho tutto pulito, gli ho mollato tutti i bolloncini delle alette, ho sistemato tutto, gli ho messo degli spessorini sotto in teflon tra la rondella in acciaio e le lamelle, e proprio per isolarlo bene. E voglio provarlo adesso che cosa può fare. Non c'è avuto ancora il coraggio di provarlo dopo il cambiamento. No, perché io lo provo domani, perché adesso domani lo ritiro a lui, lo riattacco e devo comprare a proposito altre due bananine. Così almeno sono a posto e mi compro, come si chiamano quei cosi con gli attacchi maschio e femmina, quelli in plastica, cazzo, non mi ricordo mai. Jack, perché uno mi si è rotto. Vabbè. E comunque vabbè, ci devo andare anche io domani sera, se no vabbè, dai, che devo fare anche cose, devo andare a ritirarmi la macchina. Se me l'ha fatta, ho visto che lo stavano già smontando. Vabbè, nel caso ho già fatti sentire domani, che niente, se non sei in compagnia, fatti sentire e un salto ce lo possiamo fare. Vabbè, vediamo, perché ho tutto cambiato qua a casa, tutto catapultato. Stasera ho fatto, mi è venuto un coso di un raptus di follia, mi sono tutto sistemato, pulito, fatto. E hai fatto bene, hai fatto bene, già ci vuole ogni tanto, figurati. E niente, aggiorniamoci e poi mi fai sapere. Quando esci o ci troviamo direttamente su alla GPC o niente, vediamo un po' cosa si può fare. Tanto tu domani sera non lavori. No ragazzi, all'una e mezza io esco. E chi si è visto è visto, capo. Positivo, senza nessun impegno mio, già, ci mancherebbe altro. Tanto io ti ripeto, domattina alle 9:15 sono lì, aspetto all'apertura, mi prendo Tonino, in due minuti mi prendo l'apparecchio e me ne sto discendendo. Appagato. E cosa ne dici? Gli dico che niente, che ho appurato che non era lui, che era l'alimentatore. Ai ai. Bene. Gabra. Allora gli ha fatto l'attacco nuovo al cosa, al Milan. Ah sì. Gliel'ho fatto io l'altra sera. E come hai fatto? Ci avevi così scritto? No, purtroppo no. Però mi sono messo piano e ci sono riuscito. E tu vai. Ci ho messo un po', non è che li ho trovati al primo colpo, però pian pianino, perché avevo lui acceso, poi mi sono messo il ricevitore qui, il coso, il portatile, dai, qua sull'altro apparecchio, e facevo le prove così pian pianino. Hai fatto bene, piano piano si deve destreggiare. E anche perché stare lì sempre a disturbare, a fare, a cosa, mi scoccia troppo. Vabbè, ci sono degli attacchi che sono un po' complicati e magari non riesci a farli. Quello lì, se uno non è esperto, lo sa fare. Ci sono dei fili, magari vanno collegati insieme, eccetera, eccetera. Molte volte vanno messi in parallelo. Già lo so, però poi alla fine ho detto, cazzo, non sarò manco così tondo, no. Ho provato e ti ripeto, non è che l'ho fatto in due minuti, perché ti dico la verità, ci ho messo un po', però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e funziona. È andata bene, ti dico che rulla abbastanza bene. Meglio così. Oh, ti stavo parlando ieri con il 48. Sì, ho capito. Quindi va che è una meraviglia. Quindi hai tutto sotto mano, tutto come volevo io, tutto a posto, di nuovo in ordine. Adesso aspettiamo che arrivi l'altro e poi vediamo il da farsi. E a Gigetto lo stai usando? Sì, lo sto usando adesso. Va bene, anche questo qui va bene. Si sente il bip? Il bip si sente? E a voglia. E vedi, quello mi mancava adesso. È uguale a questo. Infatti adesso ho già, anche se ce lo mandano dopo le feste, una volta che ce l'abbiamo qui, vediamo che cosa possiamo fare, anche senza metterci la panna addosso. Possiamo chiedere pian pianino in giro se qualcuno è disposto a far arrivare quelle benedetto coso, reprimimetro, così si dice. E poi se riusciamo a farlo mettere a posto, me lo metto qua a fianco. Ma io mi auguro che gli sia arrivato allora che te lo stiamo facendo. Ma già ho i miei dubbi. Cosa ti ho detto l'ultima volta? Che il tecnico glielo avrebbe dovuto portare in settimana. Quindi proprio non è arrivato. No, Gianni, se non è arrivato in 4 mesi, ti arriva in 4 giorni. C'è un tecnico dove? A New York. Ma che ne so, quelli sicuramente, il piccolino e l'incasinamento che hanno già, credi a Giuseppe. Io te l'ho spiegato com'è la situazione, no? Eia, ma se ho chiesto e telefonato anche per il microfono e mi hanno detto che non era possibile averlo con gli attacchi come lo volevo io. E quindi non fanno più nemmeno le modifiche degli apparati, nulla. Nulla già, io per fortuna sono riuscito ad acquistare in tempi ancora non sospetti e tu già lo sai quello che ho acquistato. Se no manco quello avrei avuto. Che poi le modifiche non le fanno più perché il tipo mi ha detto che il laboratorio e il tecnico non esistono più. No, non è vero, perché Maurizio si è spostato, ma c'è ancora il tecnico. E allora mi ha raccontato bugia quello, perché io gli ho chiesto il DM1000 con l'attacco per il 48 e mi ha detto che non era possibile averlo. E quando diceva di dire ti passo Maurizio Gianni. E allora bisogna provare a telefonare e vedere un pochino che versione danno, perché se questi danno la versione un giorno ne danno una e domani ne danno un'altra. Ultimamente no, ma solitamente mi dice ti passo Mauri, perché si chiama Maurizio Pavanetto. Ma io ho parlato anche diverse volte con Desiree, invece adesso manco quella lì si riesce a rintracciare. A quella parte alle fiere, quando ci sono fiere vanno a fare dimostrazioni di apparecchi nuovi eccetera. E va bene, ma non è che c'è fiera ogni settimana, no? Ma io ricevo l'email quando c'è la fiera, me lo scrive sempre, abbiamo a disposizione seguiti apparecchi ritirati a seconda mano. No, io lei non l'ho più sentita perché, ti ripeto, io non so se sia il commesso quello che mi risponde o chi sia, perché sempre vago, sempre po', sempre ma, non lo so, cioè passami il titolare, no, non, in questo momento non c'è. Il commesso, così mi ha detto lui, ma tu io sono il commesso, sono nuovo, quindi queste cose non è che le sappia da tanto, Anch'io molte volte in stabilimento dico così quando è gente che non conosco, perché da dietro al telefono una persona non ti vede, non ti riconosce, puoi dire anche che sei Babbo Natale, cioè arrivi anche a un punto, vai a pensarli tutti. Questo sì. purtroppo Giuseppe, noi ci affidiamo nelle mani loro. Io sapevo che era una dittatura, non ha mai sgarrato con me. Anzi, l'alimentatore, colui l'ho preso, ci l'ho messo da una parte, non era manco spedito, proprio per non avere più storie, perché tanto se non c'è questo ticket, dopo lo manda. Se decide, mi ha detto, l'alimentatore mandamelo, che lo mando in assistenza. Ma in assistenza dove? Assistenza dove? Se il laboratorio non ce l'hanno più, tu prova a chiamare e cerca di decidere e senti un pochino cosa ti dice. Perché è un peccato perderlo con l'alimentatore. Adesso lo sta facendo più spesso, quasi ogni giorno, prima lo facevo una volta ogni tanto. Ma io te l'ho detto, prendi il toro per le corna finché sei in tempo, perché poi mai non voglia nessuno che l'alimentatore non funziona o già, sono sempre soldi che tu hai pagato per poi aver avuto un prodotto che ha difettato dall'inizio, e non è giusto, perché tu i soldi di allora glieli hai mandati buoni. Questo è vero. Infatti io vorrei farmi mandare un altro alimentatore, non quello lì più. Mandarmi un altro tipo di alimentatore, quello difettoso, perché ne ho cambiato due. Una addirittura, come l'ha ci ha fatto, e ha scoppiato. E glielo ho mandato indietro. Mi ha mandato questo, e sta difettando. Ma tu prova almeno per una curiosità e gli dici, voglio parlare proprio con lei, e se riesci a parlarci gli dici, guarda, ti sto mandando questo e quest'altro, però me lo devi rimandare nuovo. Sì, non vale quello lì, ha qualche difetto della fabbrica. Ma è normale, ma quando mai, che scusa, devi stare con un alimentatore, accendi, spegni, perché poi presenta un difetto, se poi lo stacco dalla spina il difetto sparisce, cioè, ma non esiste proprio. Andiamo alla rottura di balle, spedirlo, farlo, pagare, ogni volta devi fare che si spendono queste cose. Ma è come ho fatto io, alle poste giù a San Giovanni, ho pagato 13 euro. Perché di me non si parla. E mi sa che vado lì. Io ho pagato una fesseria. Se lo spesi così, mi gira belle scatole e non funziona. C'è un altro che ho 7 anni che funziona meglio di quello. Ma io non è adesso che te l'ho detto, non già. Lo metti nella sua scatola, se poi non ce l'hai, poi prendi, già la procuriamo, una scatola in cartone, in altro per pacchi ce l'ho, quello largo, diciamo un pacco, bello fatto, andiamo giù alle poste di San Giovanni, ci vogliono 5 minuti. Guarda, e lo sai cos'è, che io gli avevo già spedito l'altro, capito? Quindi mi gira un bel scatolo. Che poi me l'hanno rimandato lo stesso che non funzionava, a meno che mi abbiano aggiustato quello lì e l'hanno già aggiustato male. Eia, però questo qua, prima di rimandarglielo indietro, sotto, in un punto che sei solo tu, gli fai un graffettino di quelli impercettibili che tu sai, no, quando te lo rispediscono, dove girarlo e guardarlo con la lente, mi hai capito? Cioè, ci sono tanti di quei trucchetti che, bene o male, ancora noi non siamo col dito in bocca, anche se siamo in un'isola. Sì, ma già ci ho pensato anch'io, però, secondo stai, lo spedisci una volta, se ne mandano un altro è meglio di ghiscio, perdi tutta la fantasia. Eia, però se l'avessi spedito tu a un'altra persona, stai tranquillo che te l'hai ritornato indietro due volte. Quello sì. E allora non vedo dove sia il problema. Hai pagato e finché te l'avessero regalato, dico, beh, a Napoli mi hanno regalato, non posso dire più di tanto, e quindi ti posso dare anche ragione. Però siccome l'hai pagato e l'hai pagato con i soldini, poi già vedi tu, io non avrei aspettato adesso. Io devo cercare anche lo scontrino se lo trovo. Ti conviene. Poi ti ripeto, a te spetta l'ultima parola, tu sei il proprietario dell'apparecchio già, perché poi ricomprare un nuovo di botto so che costa un pochino. E l'avevo pagato 135 euro. Ecco, e con 135 euro quante spedizioni fai? Adesso vediamo, dai. Con la scatola ce l'ho messo dentro, ma mi pare che bisogna andare a catturare una scatola di scarpe, li metto. Egli ha una scatola di cose, io l'ho procurata da un coso, da un market, avevo la scatola sua, ti ricordi, l'originale, l'ho tutto bello sistemato dentro e poi la scatola originale l'ho messo dentro una scatola di cartone, certo non era grande, era quasi a misura la cosa, quella scatola, tutta bella sigillata col pacco, col nastro per pacchi ed era perfetto. Adesso stacchiamo, anche se a me non me ne può fregare meno, però stacchiamo perché è giusto che sia così, già dai. Sì, no, scusate, un altro portato, non ne ho di problemi, mezza giornata domani ci passa alla grande, cioè non è che lavoriamo tutto il giorno perché c'è molto lavoro, boh. Ma io guarda, domani me la prendo a menzionare. Ma oggi non stai facendo niente, Giuseppe? Sì, la settimana scorsa sono uscito due volte perché per forza di cose dovevo andare. Tanto per non perdere il vizio. Eia, giovedì ero fuori e venerdì invece pure. Girella. Ma io sono sicuro che a te ti piace di più fuori che stare qua. Beh, quello è normale, cioè 25 anni, cioè 25 anni qua e altri 8 anni da un'altra parte, cioè io sono sempre stato in mezzo alla strada. Cioè. Ti capisco perché sono lo stesso, quando mi capita il magazzino, non mi basta mai l'ora. Ma figurati, io adesso invece mi sto accorgendo che il tempo mi sta volando qui, sta volando perché non fai tempo a terminare una cosa, ce ne sono altre mille da seguire, dico cazzo quanto è tardi, è già quest'ora, arrivi a luna, cade e sei con l'acqua alla gola. E magari c'è roba a replata. Eia, poi devi correre quello che e devi preparare la macchina che devi uscire lì domani e arriva l'articolato che devi scaricare. Cazzo, guarda solo, è un casino dietro l'altro. E ragioniere adesso fa altro lavoro. Ragioniere già è ancora giù, da cosa? Da gennaio è fuori. Ha finito. Lui ha finito e prende come libero professionista, va rappresentante per la nostra società. E lui ha percentuale, no, però sono percentuali che gli permettono, se qui guadagna 2.000 euro, là se ne porterà 5-6.000 a casa. Ah, lo trasferiscono? No, rimarrà sempre, la sede sua sarà sempre il punto di riferimento, lo stabilimento nostro. O avrà un portafoglio clienti che sarà qualcosa di micidiale. Il continente? No, qui sempre in Sardegna. Quindi anche lui cambia tipo di lavoro? Sì, lui diventerà libero professionista. Ma è stato un obbligo oppure l'ha deciso lui? No, diciamo che è stato un coso della società, perché ne hanno tolto uno da qui e uno da Cagliari. Ah, capito. Meno male non ti hanno messo in mezzo. No, per carità, anche se a dire la verità forse sarebbe stato meglio mio. Davvero? Cavolo, ti siedi in macchina, tanti clienti oramai li conosco tutti, dove sono dal primo all'ultimo, ti fai i tuoi giri, ti armi di blocchetto, di macchina fotografica per i reclami, e ti devi magari attrezzare qui a casa con un fax e quelle cose lì e poi parti. Capo, Marco, gli è venuto il coso che era Michele Misteri. Chi è Michele Misteri? Mi ha chiesto chi era. Mi ha detto, hai visto che l'hanno ammazzata quella ragazzina? Ma l'hanno trovato il corpo? Non lo so il corpo, però hanno trovato praticamente il cane, hanno trovato le tracce in un cantiere, hanno preso tutti quanti i nomi di chi lavorava nel cantiere e uno solo di questi è scappato, si è imbarcato con la nave di Genova e praticamente hanno chiamato la capitaneria, la nave era già a largo e la capitaneria si è messa in contatto col capitano della nave e l'hanno fatta ritornare indietro, c'era il carabinieri che lo aspettava. Eh sì, quel marocchino, però dice che durante gli interrogatori che lui non sa niente, poi bisogna vedere questo, cioè che cosa, cioè questa ragazza non può essere svanita nel nulla. E tutti dicono così, poi ammazzani, hai visto che si dentro so fora Girisi, della famiglia Messini. Sì, appena, uia. Quindi stanno facendo lo stesso gioco di quelli in cose in Inghilterra, stesso padre e figlio. Quindi lì si davano le colpe uno con l'altro, no? Hanno fatto poi primo grado, secondo grado, cassazione e li hanno assolti perché e non riuscivano a capire chi fosse il vero colpevole, perché uno incolpava l'altro, mi hai capito? Hanno fatto un bel giochetto. E questi qui hanno detto che stanno ricopiando alla perfezione quello che hanno fatto quelli là. Sì, basta risarne uno. Tanto secondo me quella ragazza è colpevole, gli altri, anche la madre sa qualche cosa. Perché mia moglie l'ha detto pure, tu sei cavolo. Uno sposta qualche cosa a casa e me ne accorgo. Quando mai una donna di casa non si accorge dell'ambiente che c'è dopo che hanno ammazzato una persona? E allora, quella lì c'ha le mani in pasta, peggio del marito e della figlia, non ti preoccupare. Sì. Secondo me tutta la famiglia c'entra. Bastardone che non è altro caso. Vedi, lo sbaglio più grande che fa la gente in questi casi qua è datelo in mano alla popolazione, caso. E così si alleggerisce la coscienza lui quando è sottoterra e la coscienza anche la gente. Perché tu cosa credi che a questo marocchino che c'è in carcere, se appena appena ne viene fuori che veramente l'ha ammazzata lui, caso, e quello ha finito? Beh. Comunque i cani hanno trovato i resti di qualche cosa della ragazza. Ma io poi provo a vedere se riesco a beccare qualche telegiornale e sentire un pochino, perché io all'ultimo coso che ho lasciato anche in internet parlava solo dell'arresto di questo marocchino. E anche io metto così, sto dicendo che, ma penso che c'è scritto è morta, c'è scritto così. Che il nome di quella ragazza, Iasica, come si chiama, è morta. Aspetta un secondo solo, già sto facendo una prova qua nel coso delle stazionarie, aspettami un secondo. Sto guardando lì la lancetta, non si muove per niente. C'è 1-1, fatelo conto. Non controllo così, io so così. Ma gli ero fatto il coso, il controllo già, ho azzerato tutto. Però prima un pochino si muoveva la lancetta. Anche 1-1 mi arrivava modulato, no. Adesso vedo che se che perista. Che non ce l'avessi, l'avessi provato ad attaccare, vedrai che salivano subito, capito? Non ci sarebbe stato problema. Io forse è abituato a vedere magari la lancetta delle volte quando si attaccava che saliva di più. È strano vederla così. E io di segnale come ti sta arrivando Giuseppe? Allora, di segnale mi hai preso un pochino di coso, di alla sprovvista. Fai un passaggio. Guarda, vedere un lettere. 9+3. Alla grande. Ora passando i fatti della parecchia. E si è sceso appena ai 25, però è un segnalone. Ma poi Giuseppe, ti saluto prima che mi tocchi nel muro. Ti saluto, ti auguro una buona giornata per domani. Poi magari ci sentiamo di sera, dai. Ciao. Ciao già, ci sentiamo, dai, buon trabacco e buon tutto. Ce la risentiamo presto, ciao.